Buonasera, ci siamo? Grazie Pastore per il privilegio che mi dai di essere qui ed è un onore per me far parte di questa famiglia. Siamo speciali, dillo alla persona che è a fianco, sei speciale. Oh, così ci rilassiamo un po'. E voglio cogliere l'occasione per ringraziare una parte di chiesa che è nascosta, però in realtà è il motore della nostra chiesa, che ci permette di vivere tutto questo la domenica, ed è il Team Power, che io ringrazio perché sono di benedizione per noi per Mottola. Come sapete, da circa un mese facciamo i nostri incontri la domenica mattina in streaming, ed è una grande benedizione perché diamo l'opportunità a tante persone di Mottola di poter vivere dei tempi speciali alla presenza di Dio. E questo non è tutto scontato. Io voglio ringraziare perché sono costanti, hanno passione, sono dedicati e soprattutto sono puntuali. Sapete, la domenica mattina alle 9:15 mi arriva il messaggino con il link. Stiamo pensando con Leo che da domenica prossima ci saranno delle telecamere. Chi viene alle 11 la domenica mattina verrà inserito nel Team Power con una mansione specifica, cioè quella di mandarmi le mail alle 9:15. No, scherzo. Però è da apprezzare. È da apprezzare il loro sacrificio, è da apprezzare la loro voglia, perché sono di benedizione per noi. E sono benedizione perché stamattina abbiamo visto anche noi, a 60 km di distanza, degli eroi che hanno fatto una scelta di seguire Gesù. Ed è qualcosa di bello. Hanno scelto di non solo di seguire Gesù, ma di vivere un percorso che li porterà di gloria in gloria. Che è stata la parola che il pastore quest'anno ha voluto dare a noi come chiesa, ma in realtà è il desiderio di Dio per ciascuno di noi, che noi possiamo crescere di gloria in gloria. Ed è un percorso, non è un qualcosa che viene in automatico, è un percorso fatto di sfide, fatte di battaglie, fatte di giganti da affrontare, ma anche di vittorie da conquistare. Sapete, non c'è una vittoria senza un combattimento. E non c'è un combattimento senza un nemico. Quindi rilassiamoci, perché Dio ha preparato ogni cosa. Noi dobbiamo semplicemente preparare le nostre vite ad afferrare le vittorie che Dio ha preparato per ciascuno di noi. E come possiamo prepararci? Dimorando nelle sue parole, rimanendo alla sua presenza, radicati alla sua parola. Ed è quello che facciamo ogni domenica, di condividere la sua parola. E io vorrei iniziare subito leggendo una storia, credo che la maggior parte di noi conosce benissimo, si trova nel Vecchio Testamento, in Due Re, al capitolo 4, dei versi 1 e 7. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse: «Mio marito, tuo servo, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi». Eliseo disse: «Che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» La donna rispose: «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio». Allora egli disse: «Va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti, e non ne chiedere pochi. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi. E a mano che saranno pieni, falli mettere da parte». La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli. Questi le portavano i vasi e le versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: «Portami ancora un vaso». Egli le rispose: «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò. Allora lei andò e riferì tutto all'uomo di Dio e le disse: «Va a vender l'olio e paga il tuo debito, e di quel che resta sostentati tu e i tuoi figli. Credo che un po' tutti conosciamo questa storia, no? Abbiamo ascoltato prediche, l'abbiamo meditata noi, abbiamo preso appunti, però io prego che questa sera possiamo imparare qualcos'altro da questa storia, perché la parola di Dio ha sempre qualcosa da dirci. Quando la leggiamo, quando la meditiamo, ha sempre qualcosa da dirci, ha sempre qualcosa da ricordarci. E quindi io prego che questa sera noi possiamo imparare qualcosa di nuovo da questa storia. Ed è una storia, tra virgolette, non bella, no? Si parla di una situazione difficile. Quanti di noi vivono situazioni difficili? Forse l'hai vissuta, forse la stai vivendo. E questa storia è una storia difficile di una donna, di una vedova che aveva perso il marito, aveva ereditato un debito, stava per perdere i suoi due figli, e non solo. A quell'epoca la legge diceva che le vedove non potevano lavorare, quindi si era chiusa un'altra porta per quella vedova. Non c'era il reddito di cittadinanza, quindi non poteva chiedere il reddito di cittadinanza, e per legge era previsto che se il debito non si riusciva a pagare, era normale che il creditore poteva avere figli o familiari come schiavi. Questo termine che ancora oggi il nemico usa per attaccare le nostre menti e la nostra generazione. Usa questa bugia nelle nostre vite dicendo che c'è un debito, che abbiamo un debito, cioè il peccato, e che non riusciamo a pagarlo, e che il nostro destino è un destino di schiavitù. E questa è la più grande bugia che il nemico da 2000 anni a questa parte attacca alle nostre menti e le menti di chi sta fuori. La verità è un'altra. La verità è che Gesù, che è vivo, ha scelto di morire su quella croce per permettere a me e a te di avere una condizione diversa, per permettere che il debito, quello mio e quello tuo, è stato pagato da lui su quella croce. Questa è la grande verità, che da avere una condizione di schiavitù, attraverso il sacrificio di Gesù, noi possiamo avere una condizione di libertà. Da avere una condizione lontani, distanti da Dio, attraverso il sacrificio di Gesù, noi siamo riconciliati. Da avere una condizione di orfani, abbiamo una condizione di adottati o figli, così come è stato il messaggio di domenica scorsa del pastore, vi ricordate? Questa è la grande verità che io prego che noi questa sera possiamo chiudere nei nostri cuori, e soprattutto che noi possiamo avere l'opportunità di poterlo dire ad altri che vivono in quella bugia, che sono chiamati a schiavitù, quando la realtà è che loro sono chiamati a un destino di libertà. Ma tornando alla storia, al verso 2, c'è un dialogo un po' insolito tra Eliseo e questa donna. Questa donna racconta ad Eliseo i suoi problemi, il suo problema. Ed Eliseo risponde con una domanda del tipo: cosa vuoi che io faccia e cosa hai in casa tua? Ora, se pensiamo un po' a... se hai un debito e vai a un tuo amico per chiedere aiuto, io credo che tu non ti aspetti una domanda del genere o delle domande del genere. Al massimo le domande che ti puoi aspettare è: ok, quanto ti manca per coprire il debito? quanti soldi vuoi, o aspetta, faccio una colletta, apro un gruppo WhatsApp e vediamo cosa riusciamo a raccogliere, poi il resto lo metti tu. Un po' è quello che noi ci aspettiamo, no? Quando chiediamo aiuto a qualche persona. Però questo mi fa capire, leggendo questo verso, che Dio vede in maniera diversa da come noi vediamo le situazioni. E la risposta di questa donna è stata: io non ho nulla. Inizialmente è stato: io non ho nulla. E mi voglio fermare qua, perché quante volte succede a noi di dire la stessa cosa? Io non ho nulla, a me manca questo, io non ho niente. E poi quello che succede è che iniziamo a paragonarci con gli altri e iniziamo a vedere quello che gli altri hanno e quello che io non ho. Ah, ma lui ha questo, ma io non ho quello che ha lui. Ah, ma lei ha quella cosa che io non ho. E sapete, il paragone con gli altri provoca dentro di noi un disagio, un'amarezza, una delusione. E io vorrei chiedere alla regia se manda una foto mia, vediamo se la manda. Vediamo. Questo è quando facevo attività. Oh, eccolo qua. Allora, sono il terzo. Scherzo. Però questa è atletica leggera, no? Noi tutti conosciamo questo sport. E la particolarità è che ci sono delle corsie e ci sono dei corridori. Ogni corridore ha una corsia. Ora, come ogni sport, c'è un regolamento, no? E questo regolamento dell'atletica leggera, c'è un regolamento particolare, curioso, e cioè dice che quando un corridore calpesta o invade la corsia di destra o la corsia di sinistra, viene squalificato. Sapete, il paragone con gli altri è proprio questo. Rischiamo di essere squalificati. Rischiamo di non vedere più, in realtà, di perdere di vista lo scopo che Dio ha per noi. Perdiamo di vista l'obiettivo che Dio ha preparato per noi. Ma quando noi ci concentriamo sulla nostra corsia di vita, ed è bello perché in Ebrei proprio c'è una definizione della nostra vita come gara, e noi facciamo una gara, corriamo una gara, ma è importante che noi ci concentriamo sulla nostra corsia. Perché quando ci concentriamo sulla nostra corsia, quello che riusciamo a vedere sono le ricchezze e le meraviglie che Dio ha messo dentro di noi. Questa sera riconosci quello che hai. Questa sera riconosci quello che hai. Non paragonarti agli altri. Tu sei speciale. E poi la donna si corregge, continua. E io prego che noi ci possiamo correggere. Dice: io non ho nulla tranne un vasetto d'olio. Qual è il tuo tranne questa sera? Forse sai cucinare, forse sai disegnare, forse sai cantare. Ora, apro una parentesi. Non paragoniamoci a Noemi, per favore, perché la vedo insegnare, la vedo predicare, la vedo cantare, domani sta a Striscia la Notizia sicuramente, non lo so, quindi non paragoniamoci, amen. Grande Pino, ci sta la risata, dai. No, anche l'applauso, dai, facciamo l'applauso. Non paragoniamoci, no? Però tu puoi essere quella persona che sa ascoltare tuo marito, puoi essere quella persona onesta sul posto di lavoro, forse sei quella persona fedele nelle relazioni. Forse lo devi semplicemente scoprire questa sera. E Dio ti sfida a scoprirlo. Perché sai, siamo stati creati in maniera stupenda, è unica. E in Isaia dice che noi siamo preziosi ai suoi occhi. E quando siamo preziosi significa che abbiamo valore. E tu e io abbiamo valore. E questa donna ha riconosciuto quello che aveva. ha riconosciuto il suo tranne. Qual è il tuo tranne? Perché tu ce l'hai. La verità è che tu ce l'hai. A volte riconosciamo il nostro tranne e sapete quello che succede? Ci lamentiamo che è troppo poco. Riconosciamo quel tranne, ma ci lamentiamo perché è troppo poco. Ma io ho poco. No, ma questa cosa che io ho è troppo poco per fare cose grandi. Beh, in realtà la Bibbia spiega esattamente l'opposto. Le cose grandi sono nate sempre dalle cose piccole. Se pensiamo a Sansone con una mascella, ha sconfitto un esercito. Se pensiamo a Davide e Golia, se pensiamo alle migliaia di persone che sono state sfamate da 5 pani e 2 pesci, la differenza non la fa la quantità, la differenza la fa nelle mani in cui tu metti la quantità. Ma io ho poca fede. Mettila nelle mani di Dio e Dio la renderà grande. Ma io ho poca speranza in questa situazione. Mettila nelle mani di Dio e Dio renderà grande la tua speranza. Ma io ho poca gioia. Mettila nelle mani di Dio e Dio la renderà grande. Non importa il tuo poco, ma quello che conta è che il tuo poco è tutto quello che occorre per Dio per farti vivere una vita vittoriosa e una vita abbondante. Amen? Il tuo poco è tutto quello che occorre a Dio per farti vivere una vita abbondante e una vita vittoriosa. E quella donna aveva riconosciuto quello che aveva. E il primo punto è proprio questo: riconosci quello che hai questa sera. Dopo aver riconosciuto quello che lei aveva, ha fatto un qualcosa di meraviglioso. Al verso 3 è scritto che Eliseo gli dà un'istruzione, gli dice di andare fuori dai suoi vicini e prendere dei vasi vuoti. E lei quello che ha fatto, ha messo in azione la sua fede. Non c'è scritto che ha chiesto, scusa ma Eliseo, ma forse stai sbagliando qualcosa, perché ti voglio dire, cioè io, se io vado a prendere degli altri vasi, ne basta solo uno, perché ne prendo uno simile a quello che ho, se lo vuoi versare, uno te ne basta. Oppure non ha detto, ma vabbè, forse vorrà unirlo all'acqua e lo vuole allungare un po' con l'acqua, l'olio. Non si è fatto tutti questi pensieri, no? Però questo mi parla di una fede da imitare. Sapete, molte volte perdiamo il vero significato della fede. La fede non è sapere come Dio agirà, ma è credere che lo farà. Ve lo ripeto, perché è un bel principio questo da mettere in pratica. La fede non è sapere come Dio agirà, ma è credere che lo farà. Io voglio farvi vedere una foto, vediamo se la regia questa volta è papam. Dai, c'è, ah, eccola qua. Ah, questa è una parte della nostra chiesa di Mottola. Quanti sono venuti a Mottola? Posso vedere le mani? Bene, pochi. Tutti gli altri siete benvenuti. Quando volete potete venire. E questa è una benedizione di Dio. Circa un anno e mezzo fa, Dio ci ha benedetti, dandoci un locale in fitto, prendendo un locale in fitto, e quindi dopo vari anni a smontare, e mo andiamo in quel locale, mo andiamo in quell'altro locale comunale, Dio ha voluto benedire le nostre vite, no? Dandoci questo locale qua. E qui c'è tutta la gioia possibile e immaginabile. Però in realtà, se c'è la foto, un'altra foto, per favore. Vediamo. Ah, in realtà è questo il vero locale che noi abbiamo preso. È questo. Sapete, ci sono stati alti e bassi. Ci sono stati alti e bassi dove inizialmente si cercava di comprendere come Dio avrebbe fatto. Però è arrivato a un certo punto dove non potevamo più pensarla così, ma dovevamo iniziare a fidarci veramente di Dio, senza comprendere come Lui avrebbe fatto, ma semplicemente che Lui l'avrebbe fatto. E quando abbiamo iniziato a vivere con questa attitudine, sono successi miracoli. Sapete, non avevamo tante risorse. Avevamo un bellissimo progetto, però non avevamo tante risorse. E ci sono stati giorni dove si andava semplicemente per pulire la polvere. Però quello che ha fatto la differenza è stata la nostra attitudine. Sapete, in quei giorni dove avevamo solo da pulire, entravano delle persone che non erano di Mottola, che non le conoscevamo, che entravano, chiedevano ma cosa state facendo, uscivano e dopo 5 minuti venivano e ci davano dei soldi. E quei soldi sono serviti per continuare i lavori. Sapete, Dio è fedele. Quando noi ci fidiamo di Dio, non significa comprendere tutto di Dio. E qui non avevamo tanto da comprendere, avevamo solo da fidarci. A volte la nostra mente cerca disperatamente di comprendere come e quando sarà il risultato di Dio. Però la verità è che il risultato è responsabilità di Dio, l'ubbidienza è responsabilità mia. Il risultato è responsabilità di Dio, l'ubbidienza è responsabilità mia. Questa donna ha ubbidito, ha creduto, non ha cercato di comprendere, ha semplicemente creduto. E ci sono tante storie nella Bibbia dove si parla che dopo una ubbidienza c'è stata una benedizione. Sapete, la pesca miracolosa, conosciamo tutti la storia. La responsabilità dei discepoli è stata quella di buttare le reti in mare. La responsabilità di Gesù, la pesca. La responsabilità di alcuni discepoli è stato di spostare una pietra davanti al sepolcro di Lazzaro. La responsabilità di Gesù è stata quella di guarire, di risuscitare Lazzaro. La responsabilità di Abramo è stata quella di partire. La responsabilità di Dio di benedire tutte le sue famiglie. Amen? La vera obbedienza porta inevitabilmente a una grande benedizione. E quando parlo di vera obbedienza è perché ci sono alcune false. E sapete, io nella mia vita ho vissuto false obbedienze. Non so se, spero che sono l'unico, magari sono l'unico a dire questo e per viverle questo, però ve le dico, dai. È un percorso e io sto cercando di migliorare, no? Di passare di gloria in gloria. Però non vi nascondo che agli inizi la mia ubbidienza era un'ubbidienza fai da te, non so quanti la conoscono. L'ubbidienza selettiva, va. E quando prendi la Bibbia, la apri, e ci sono quelle pagine belle che tu dici, sì, voglio ubbidirti Gesù, ti ubbidisco Gesù, sì, certo. E poi ci sono altre pagine dove non mi andava a genio quello che leggevo e giravo pagina. E quella è l'ubbidienza selettiva, quella che non porta grandi risultati. E poi c'è un altro tipo di ubbidienza, che è quella io ubbidisco per ricevere l'amore di Dio. io ubbidisco per conquistare l'amore di Dio. Sapete una cosa? L'amore di Dio non si può conquistare. L'amore di Dio non si può nemmeno comprare. Sapete perché? Perché Dio ci ama comunque. Se sei ubbidiente e anche se sei disubbidiente. Il suo amore è un amore incondizionato nei nostri confronti. Il nostro amore può crescere nei suoi confronti, ma il suo nei nostri no, perché lui ci ama. Lui è fonte d'amore. L'ubbidienza, quella vera, ha a che fare con il cuore. L'ubbidienza vera ha a che fare quando noi amiamo veramente Dio. Sapete, Giovanni 14 al versetto 15 dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E poi dice: io chiederò al Padre che è il Consolatore. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non dice: se osservate i miei comandamenti, io vi amerò di più. Dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Sapete, quando noi siamo innamorati di Dio, quando noi amiamo Dio in maniera autentica, quello che succede è che noi comprendiamo quello che Lui vuole da noi. E sapete, quello che Lui vuole da noi è che ci fidiamo di Lui. Perché quello che Lui dice, Lui mantiene. Quello che Lui promette, Lui lo fa. Quando noi amiamo veramente Dio, noi comprendiamo che il suo piano è migliore del nostro. L'ubbidienza vera ci forma, ci disciplina, ci fa crescere. E Dio vuole che noi cresciamo. Dio vuole che noi come Chiesa possiamo crescere in obbedienza. E poi c'è il terzo punto. Quindi questa donna ha riconosciuto quello che aveva, ha attivato la sua fede e poi ha fatto un'altra cosa. Credo che sia quella più importante. Sapete, quella donna ha riconosciuto che la sua soluzione era nell'olio. La soluzione per la sua famiglia era nell'olio. Sapete, oggi la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione per questa generazione continua ad essere l'olio. E non sto parlando l'olio extravergine, non sto parlando dell'olio che abbiamo in cucina, ma sto parlando dell'olio della Bibbia. E la Bibbia paragona l'olio allo Spirito Santo. La parabola delle 10 vergini, ce la conosciamo. 5 erano vedute e avevano dell'olio, 5 erano stolte e non avevano dell'olio. La soluzione rimane sempre lo Spirito Santo. E quando noi coinvolgiamo lo Spirito Santo nel nostro matrimonio, succede che il nostro matrimonio inizia ad essere sano. Quando noi coinvolgiamo lo Spirito Santo nelle nostre relazioni, continueranno ad essere sane le relazioni. Quando noi coinvolgiamo lo Spirito Santo nelle nostre famiglie rotte, lo Spirito Santo è capace di ricostruirle. Quando coinvolgiamo lo Spirito Santo nella Chiesa, la Chiesa conquisterà nuovi territori. La Chiesa avanzerà. Non lo cercare in posti mistici. Non lo cercare in posti lontani, non lo cercare altrove. Eliseo ha detto: cos'hai in casa tua? Non ha detto: vai in un'altra casa a prendere dell'olio. Casa tua è il tuo cuore. Cercano nel tuo cuore. Perché lo Spirito Santo vuole riempire i nostri vasi. E Dio è alla ricerca disperata di vasi vuoti. Va e prendi quanti più vasi vuoti possibili. E Dio ancora oggi sta facendo questa richiesta. Va e cerca quanti più vasi vuoti, perché io voglio riempirli. Com'è il tuo vaso? È pronto per essere riempito questa sera? Stasera abbiamo l'opportunità di essere riempiti dallo Spirito Santo. Forse devi semplicemente coinvolgere lo Spirito Santo e permettere a Lui di mostrarti tutte quelle cose che devono essere tolte da quel vaso. Coinvolgi lo Spirito Santo e permetti a Lui stesso di mostrarti quel peccato o quei peccati che devono essere eliminati. Coinvolgi lo Spirito Santo e permetti a Lui di mostrarti quali sono le forme, forse di egoismo, forse di orgoglio, che devono essere tolte da quel vaso. Perché Lui vuole riempire. Quando noi coinvolgiamo lo Spirito Santo, noi riusciamo a gareggiare nella nostra corsia. Quando coinvolgiamo lo Spirito Santo, noi riusciamo a riconoscere le cose che abbiamo. Quando coinvolgiamo lo Spirito Santo, noi riusciamo ad avere fede, quella fede attiva, quell'ubbidienza vera che è spinta dall'amore che noi abbiamo nei confronti di Dio. Sapete, fuori c'è tanta gente che è alla ricerca disperata di olio. È alla ricerca disperata di Spirito Santo. E Dio ci dà questo grande privilegio di essere quei vasi riempiti dal suo olio. Domani, sul tuo posto di lavoro, che vaso vuoi essere? Vuoi essere un vaso vuoto come tutti gli altri? Oppure vuoi essere riempito dello Spirito Santo? E sapete, lo Spirito Santo è contagioso. Quando noi siamo ripieni del suo Spirito, chi ci sta intorno non può far altro che desiderare lo Spirito Santo. Domani, nella tua famiglia, che vaso vuoi essere? Un vaso vuoto o un vaso ripieno del suo Spirito? Vedete, lo Spirito Santo vuole rialzarti questa sera e posizionarti nel destino dove tu puoi usare e sviluppare il tuo potenziale. Io prego che questa sera noi possiamo avere quella fede di dire: io credo che lo Spirito Santo vuole riempire la mia vita, e Lui lo vuole fare. Sta a me e sta a te desiderare questo. Lui vuole riempire le nostre vite. Lui vuole riempire i nostri vasi. Non aspettare. Non aspettare a un evento particolare. Non aspettare a un posto particolare. Ma lo Spirito Santo questa sera è qui e vuole riempire le nostre vite. Perché l'unica cosa di cui noi abbiamo bisogno è della sua presenza. Lo cantiamo, è vero, ma lo desideriamo? Vogliamo essere quei vasi disposti a ad essere riempiti da Lui. Io ho dato il titolo che era non ho niente, ho qualcosa, ho tutto. E forse tu sei entrato in questo luogo pensando di non avere niente. La mia preghiera è che tu possa uscire questa sera con la consapevolezza che tu hai tutto, perché lo Spirito Santo è il tuo tutto, lo Spirito Santo è il mio tutto. E questa sera abbiamo l'opportunità di poter essere riempiti, essere persone diverse, essere quelle persone migliori che riescono a vivere un'obbedienza sincera, che riescono a vivere guardando noi stessi del potenziale che Dio stesso ha messo nelle nostre vite. Tu sei speciale, tu sei un vaso prezioso agli occhi di Dio e Dio non aspetta altro questa sera che riempirti. Quindi quello che vorrei fare ora è alzarci in piedi, chiudere i nostri occhi e vivere un tempo di preghiera. Io non so in che situazione ti trovi, non so la condizione del tuo vaso, se è pieno, è pronto, oppure hai bisogno che lo Spirito Santo deve mostrarti le cose che ci sono da fare. Quindi quello che vorrei fare è spingervi oltre e fare un passo di fede. E quindi se senti che questa parola era per te, se senti che hai bisogno di essere ripieno dello Spirito Santo, se hai bisogno di essere riempito, allora ti chiedo di fare un gesto, quello di venire qui avanti. Di avere quel coraggio di venire qui avanti e sperimentare la potenza dello Spirito Santo. Io lo credo forte, che lo Spirito Santo è qui questa sera e vuole riempire i nostri cuori. Se desideri questo, allora ti chiedo di venire avanti e con i ministri della squadra pastorale noi vogliamo pregare con te.